Saluti da Nino. Buongiorno da Antonella Beccaria, per questa puntata di Giustizia e Ingiustizie siamo in tribunale a Bologna. Questa mattina infatti davanti alla Corte d'Assise è iniziato il processo che vede accusato di concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 l'ex terrorista nero Gilberto Cavallini. E le battute iniziali sono entrate subito nel vivo con le richieste preliminari, perché l'avvocato Gabriele Bordoni, che difende l'imputato, ha chiesto di dichiarare inammissibili tutte le parti civili, che solo per i familiari sono salite da 90 a 94 questa mattina. Il motivo è la mancata notifica al comune di Milano, che è tutore di Cavallini, delle appunto costituzioni di parti civili. Richiamandosi a principi civilistici, l'avvocato Bordoni sostiene che se non venissero dichiarate inammissibili le parti civili, viene negata un'efficace rappresentanza nel processo dell'imputato. Una richiesta non da poco che ha scatenato la reazione delle parti. Il pubblico ministero Antonella Scandellari ha ribattuto che al massimo vale solo per le parti civili costituite oggi, dato che non è stato contestato nulla a quelle costituite prima nell'udienza preliminare di ottobre. E tra gli interventi degli avvocati il più significativo è stato quello di Giuseppe Giampaolo, che nel processo rappresenta la regione Emilia-Romagna, il comune di Bologna e alcuni familiari. I difensori di Cavallini, ha esordito illegale, erano presenti in udienza preliminare e altrettanto regolarmente, credo, rappresentavano l'imputato. Per un principio di lealtà processuale non capisco perché questa eccezione non sia stata fatta a suo tempo. E nel giro di poche decine di minuti, insomma, la Corte, che è presieduta dal giudice Michele Leoni, si è ritirata per la prima volta in camera di consiglio, uscendone poco dopo, per rigettare la richiesta della difesa dell'imputato. A questo punto nella mattinata si è passati alla presentazione delle richieste di prova. Prima il pubblico ministero Antonella Scandellari e poi il collega Antonello Gustapane, che rappresenta l'accusa insieme ad Enrico Cera, hanno chiesto l'acquisizione delle sentenze passate in giudicato che hanno condannato Cavallini per banda armata e Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini per la strage. Più in generale l'intento della procura è quello di verificare se l'imputato ha dato un contributo causale alla strage, e in particolare si vuole concentrarsi sulla base logistica di Villorba di Treviso, sul passaggio di una patente attraverso un altro condannato nella strage a Valerio Fioravanti, che nel frattempo era divenuto latitante, e l'aver fornito il mezzo di trasporto per andare da Villorba a Bologna. Le parti civili che hanno presentato le proprie richieste di prova più avanti, in particolare, hanno chiesto che vengano sentiti due ufficiali, alcuni ufficiali dei carabinieri, in particolare Mario Mori e Giorgio Tesser, che all'epoca delle prime indagini fecero accertamenti su Cavallini. In particolare si vogliono rivolgere a loro domande sui covi, sulla rete eversiva romano-veneta, sulla presenza in questi covi di divise da carabiniere e la preparazione di un attentato a un magistrato, il magistrato Giancarlo Stiz, che all'inizio degli anni 70 per primo aveva formulato la pista nera per la strage di Piazza Fontana. Ma si chiede che vengano sentiti anche Carlo Maria Maggi, condannato in via definitiva per la strage di Piazza della Loggia, e Maurizio Paolucci, custode del poligono di tiro di Venezia, che era uno dei luoghi attorno ai quali circuitavano i gruppi ordinovisti veneti. Sentirli per le parti civili è importante per sondare la ricostituzione del partito fascista dopo il provvedimento di inizio anni 70 e un traffico d'armi che risale invece questo all'inizio degli anni 80 che vede coinvolto Cavallini. E insomma la parola successivamente è passata agli avvocati della difesa dell'imputato, gli avvocati Alessandro Pellegrini e di nuovo Gabriele Bordoni, che hanno ripreso quella che era già stata archiviata, la cosiddetta pista palestinese, focalizzandosi un'altra volta su Thomas Kram, un esponente dell'estrema sinistra tedesca condannato per attività sovversive e che era già stato archiviato nel 2013 proprio per l'accusa di strage. Hanno detto che poi verranno sentiti se le liste testi saranno accettate Carlo Giovanardi, che è stato commissario della Commissione Moro, per parlare di documenti rilevantissimi, come hanno detto gli avvocati, ma altrettanto segreti, sulle minacce dell'estate 1980 all'Italia. Italia e si tornerà poi attraverso documenti della commissione Mitrokhin sul gruppo Separat e il terrorista Carlos. A questo punto l'udienza si è chiusa, insomma si tratterà di un processo che andrà avanti molto probabilmente a lungo, si parla di un'udienza alla settimana ogni mercoledì per i prossimi 2 anni. Per questa puntata ci fermiamo qui, un grazie ad Antonella Beccaria per averci seguito e ci risentiamo la settimana prossima.